nothing. Nothing but your bloody knives and your fancy karate gimmicks. We have guns. No, what do you have of bullets? And the hope that when your guns are empty, I'm no longer standing. Because if I am, you'll all be dead before you've reloaded. You think it's too hard to remember? Just remember that letters gonna switch to numbers, but your number, you stand. It's a little bit of fate. You surrender at last. Whispers of mirrors lost with the veil. It was fun, but then I guess. Abbiamo dato spazio all'Italia in questo inizio di seconda parte del volume numero 4 di Eclettica, seconda parte che va in onda fra le 19.30 e le 20 e che poi è disponibile sempre con questa divisione in parti da 30 minuti anche come podcasting. Giulio Caperdoni, vi ricordo anche l'indirizzo di mail giulio@radiorockfm.com. Invece per quanto riguarda i nomi che ci siamo ascoltati, sono due nomi legati a due album, uno già uscito e l'altro in uscita e preannunciato da un singolo disponibile in formato digitale. L'album già uscito è quello nuovo di Paolo Benvenu, dal quale ci stiamo ascoltando per il momento la schiena. Sottolineo per il momento perché poi ci sono già altri brani pronti, anzi che scalpitano, per essere trasmessi in Eclettica. Invece Cold Device è l'anticipazione, solo digitale, di quello che sarà il nuovo album degli Yuppie Flow. Ed ora si passa ad una novità, una cosa abbastanza inconsueta, non è che capita così spesso, una novità dal vivo. Lui si chiama Colin Meloy, probabilmente conoscete meglio il nome della band di cui è il cantante, The Decemberists, band di Portland, Oregon. Colin è da tempo che ogni tanto abbandona la sua band per far uscire delle prove soliste che fino ad ora sono state prove monotematiche. Infatti è uscito nel 2005 con Colin Meloy Sings Morrissey, nel 2006 con Colin Meloy Sings Shirley Collins e adesso sta per uscire con un altro album dedicato a Sam Cooke. Però in contemporanea uscirà anche con un album dal vivo ed è proprio da questo album dal vivo che io vado ad estrarre la canzone di Colin Meloy intitolata We Both Go Down Together. Here on these cliffs of Dover, so high you can't see over, and while your head is spinning, hold tight, it's just beginning. You come from parents wanting a childhood rough and rotten. I come from wealth and beauty, untouched by work or duty. And oh, my love, my love. And oh, my love, my love. We both go down together. I found you a tattoo triumph, a dirty daughter from the labor camps. I laid you down in the grass of a clearing. You wept, but your soul was willing. And oh, my love, my love. And oh, my love, my love. Both go down together, and my parents will never consent to this love. But I hold your hand, meet me on my vast veranda, my sweet untouched Miranda. And while the seagulls are crying, we fall, but our souls are flying. And oh, my love, my love. And oh, my love, my love. And oh, my love, oh my love. And oh, my love, my love. We both go down. Wait for it. Together. Thank you. Quando Danny tornò dalle milizie, apprese di essere un erede e proprietario. Il vecchio, ossia il nonno, era morto e gli aveva lasciato le due piccole case di Pian della Tortiglia. Subito egli sentì in qualche modo il peso della responsabilità di possedere. Prima ancora di andare a guardare la proprietà, comprò un gallone di vino rosso e lo bevve, da solo, quasi tutto. Venuto meno al peso della responsabilità, montò allora a galla il peggio della sua natura. Egli cominciò a urlare, ruppe due o tre seggiole nella sala da gioco in via Alvarado e due volte pugnò coprendosi di gloria, ma nessuno, come al solito, gli diede troppo spago. Questo era l'incipit di Pian della Tortiglia di John Steinbeck. Trying to jump. supposed to be. We're all right where we're supposed to be. We're all right where we're supposed to be. Vicini alla conclusione della trasmissione di quest'oggi, ci siamo arrivati prima con The Box, Arm in Arm, e poi con l'ultimo dei We Are Scientists, intitolato After Hours. Per chiudere a tutti gli effetti con la Svezia, con una band che prende il nome da una vecchia canzone dei Doors. D'altronde le canzoni dei Doors possono essere solo vecchie, quindi l'aggettivo era assolutamente inutile, ma ormai l'ho detto. Black Crowes Country è il titolo dell'album della formazione, il cui nome è Hyacinth House. Formazione che è uscita con questo album, che è il suo secondo, nell'estate del 2007, ed è uscita prima nella terra natale, in Svezia, poi dopo qualche mese in qualche altro paese del nord Europa, ed ora, il 29 febbraio, il disco è stato pubblicato da Glitter House in tutta Europa. Hyacinth House, che ci ascoltiamo con la canzone intitolata Rosewood Country Club. Cigarette strikes your lips as the horizon's including light. On the terrace, a mystic autumn wind is playing in your daughter's hair. She looks like a small Jesus eating ass from pain. Happy new moment, proud of where you are. Now she's taking demons, pain for someone. Voice clear as a crystal. Streets of fame, blurry like a vision, crazy like a dream. Taking one more step at the Rosewood Country. voice clear as a crystal. Down the streets of fame, blurry like a vision, crazy like a dream. In this old paraffin kitchen at the Rosewood Country Club, voice clear as a crystal. Down the streets of fame, blurry like a vision, crazy like a dream. Taking one more step at the Rosewood Country Club. Voice clear as a crystal. Down the streets of fame, blurry like a vision, crazy like a dream. Taking one more step at the Rosewood Country Club. Eclettica, stagione numero 14, settimana numero 20, volume numero 4. Indice, The Felicity Brothers. Edward Bostich, Back to Blonde, Devastations, Malcolm Middleton, Paolo Benvenu, Yuppie Flew, Colin Malloy, The Box, We Are Scientists, Hyacinth House. Cari amici, il vostro programma è terminato. Vi diamo appuntamento a domani alla stessa ora. Cari amici, il vostro programma è terminato. Arrivederci.